tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ieri ho detto un'inesattezza, il minimo che posso fare oggi è cominciare col correggerla. Ero in buona compagnia per la verità, perché nello stesso errore sono incorsi niente meno il presidente del CONI Petrucci e il presidente dell'AIC Campana. Ma in buona sostanza non toccava all'arbitro Orsato sospendere la partita di Cagliari per manifestazioni razziste, bensì al responsabile dell'ordine pubblico. Questo in base alla nuova norma, l'articolo 62, recepito lo scorso 5 maggio dalla Federcalcio su disposizione UEFA. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, si legge nel regolamento, che fa parte delle norme organizzative interne della Federcalcio, dicevo, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti da tifosi, cori, gride ed ogni altra manifestazione discriminatoria costituente fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara. Detto questo, ridarei però a Orsato quello che è di Orsato, cioè il fatto di non aver fatto cenno nel rapporto ai cori razzisti, cosa che ha messo il giudice sportivo Tosel nella condizione di non prendere alcun provvedimento. Ora, io credo che per analogia toccherebbe questa incombenza al responsabile dell'ordine pubblico, ma poiché al momento tocca ancora all'arbitro, Orsato ha fatto come le tre scimmiette: là e non vedo, non sento, non parlo, qui e non sento, non fischio e non scrivo. Proviamo a rifarci la bocca con il calcio estero, può essere un tentativo. Bentornato Fabio Tavenni. Buongiorno, saluto a tutti. Sì, anche se quel dito medio dell'arbitro internazionale ticinese internazionale Busacca, insomma, ha fatto oggettivamente il giro del mondo. Ha fatto il giro del mondo, anche se poi in realtà delle immagini non... immagini vere non ne abbiamo trovate. Io ho provato a cercare anche un po' su YouTube, sì, ci sono dei fermi immagini di questo dito medio che insomma si vede molto bene, ma poi non bastasse quello, c'è poi la sua ammissione, la confessione da parte di Massimo Busacca, e è certo che non è una scena consueta. Cerchiamo semplicemente di contestualizzare: Massimo Busacca è un arbitro internazionale ed è un signor arbitro, è l'uomo che ha diretto la finale di Roma tra Manchester United e Barcellona nell'ultima gara, appunto nella finale di Champions League. È un arbitro che ha 40 anni e quindi legittimamente sarà il suo ultimo mondiale, e altrettanto legittimamente pensa o pensava di poter dirigere la finale. È un arbitro di fatto italiano, nel senso che è nato a Bellinzona e quando gli insulti che arrivano dalle tribune vogliono colpirlo, lo colpiscono sulla sua italianità. E devo anche dirti che è un arbitro che risponde al telefono, ed è un arbitro che interviene in diretta, ed è un arbitro che spiega delle cose. Lui intervenne in diretta anche un giorno prima, due giorni prima alla finale di Champions League, e ci raccontò un po' le sue emozioni. Ora, la partita era una partita di Coppa di Svizzera tra il Baden e lo Young Boys. Io ho visto le immagini un po' della partita, ripeto, non ho visto proprio fisicamente il gesto in immagine, però ho visto, cioè stiamo parlando di uno stadio che non è uno stadio, nel senso che c'è una sola tribuna e tutto il resto sono delle recinzioni con delle piccolissime tribunette in probabilmente materiale tubolare o quant'altro, e quindi la gente era veramente molto molto vicina, al punto che alcune bandiere dei tifosi dello Young Boys mentre sventolavano arrivavano a toccare il terreno di gioco. Quindi è evidente che la situazione ambientale era una situazione nella quale lui poteva sentire anche i sospiri da parte dei tifosi. Ora, da lì a reagire in quel modo, ovviamente ce ne corre. Sì, lui ha spiegato, a parte che non ci sono le immagini televisive, c'è una foto inequivocabile in cui lui proietta questo dito medio della mano sinistra in direzione di questi tifosi dello Young Boys che l'hanno preso di mira, ha raccontato poi lui, con una serie di, vabbè, possiamo immaginarci, no? Insulti in italiano, ovviamente in lingua, da ben prima, cioè da durante il riscaldamento in avanti, e questo gli ha fatto saltare i nervi. Devo dire che lo capisco, è chiaro che il torto è suo, è passato lui dalla parte del torto. Io trovo che se anche nella civilissima Svizzera questo è diventato l'approccio del tifoso, l'approccio preventivo del tifoso nei confronti dell'arbitro, beh, siamo combinati male. Siamo messi male. Devo dirti però anche che la Svizzera ha una tipologia sia di territorio che di composizione etnica, fammi dire, che ogni tanto può anche prestarsi a qualche ha qualche coro ostile, nel senso che è chiaro che la componente francofona, sì, la componente tedesca, quella italiana, non a caso Massimo Busacca è di fatto un italiano, nel senso, sì, che, sì, parla la nostra lingua, poi ne parlerà altre due perché lì gliele insegnano, però è uno che se... cioè il problema è che in Svizzera per qualcuno essere italiano, cioè quando vogliono insultarti ti danno dell'italiano, per cui è tutto ben... è abbastanza facile da inquadrare la questione, è anche abbastanza facile che probabilmente uno dopo un po' reagisca male. Credo onestamente che Busacca abbia alzato la mano per indicare qualcosa e abbia semplicemente invertito il dito, sì, poi è stato bravo il fotografo, sì, lì davvero il fotografo è stato fantastico perché gliel'ha proprio pescata, altrimenti non so in quanti se ne sarebbero accorti. No, difatti vabbè, insomma, comunque per una volta, dato che per una volta è l'uomo che morde il cane, no? Quindi è normale che questa foto facesse il giro del pianeta, anche se, ripeto, io credo che in Svizzera ricevano, soprattutto in quella italiana, ricevono molte trasmissioni televisive italiane, e questo può spiegare, no, il calo di sportività, il tasso di civiltà calante che c'è anche negli stati svizzeri, evidentemente. Ma insomma, questa è una considerazione. Siamo già al primo intervallo. Un ascoltatore di nome Dario scrive: ma una volta non cominciavate alle 14? Dario, i palinsesti di Radio 24 hanno movimenti ogni tanto sussultori, ogni tanto ondulatori. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e proviamo a parlare della differenza di spettacolo che si rileva nei campionati esteri rispetto al nostro. E cioè, martedì e mercoledì scorso di bello abbiamo visto poco, anche da parte delle squadre europee più celebrate. Le nostre idem, anzi magari pure peggio. Poi le nostre grandi squadre non è che ci hanno molto divertito nel fine settimana, mentre altrove è ricominciata piedi grotta. Ricominciata davvero, e insomma non è da oggi che facciamo questi paragoni che dal punto di vista spettacolare e complessivo sono abbastanza penalizzanti nei confronti del campionato di calcio italiano. Forse però sabato e domenica è stato anche di più, perché insomma Napoli-Udinese non è stato uno spettacolo indimenticabile. Lo stesso posticipo tra la Roma e la Fiorentina, benino, ma soprattutto il primo tempo e per la Roma, poi lo spettacolo devono farlo in due, la Fiorentina non c'è di fatto stata, e la stessa cosa è stata Juventus-Livorno sabato. Tutto questo accoppiato con una partita bellissima come quella tra West Ham e Liverpool, un derby di Manchester davvero, davvero entusiasmante, deciso al 95esimo da un gol di Michael Owen, dunque per sentir dire a Marianella non ci credo, vuol dire che deve essere successo davvero qualcosa di fenomenale, e messo insieme anche la vittoria del Chelsea contro il Tottenham, lo spettacolo che hanno dato il Barcellona e il Real Madrid, ora io insomma non mi è stato difficile rilevare quanta differenza ci fosse tra questi due spettacoli. Credo anche che esistano delle motivazioni tecniche, una banalissima, penso che il derby di Manchester con due portieri normali non sarebbe finito 4-3. Credo che in Inghilterra debbano cominciare a porsi seriamente questo problema, perché il numero di gol non è esageratamente superiore a quello del campionato italiano, anzi, però è esageratamente superiore il numero di gol presi in maniera abbastanza sciocca, quantomeno non con dei portieri abbastanza improbabili. Detto questo, secondo me a livello di calcio inglese c'è anche una spiegazione tecnico-tattica, cioè il fatto che in Inghilterra si tende molto più a cercare il contrasto già dalla fase di centrocampo, e questo a livello appunto di centrocampo con giocatori un po' più verticali rispetto ai giocatori che stanno al campionato italiano, che hanno più tendenza orizzontale, cioè ad appoggiare lateralmente, quindi ad andare a sfruttare di più le fasce o a cercare le fasce, e questo crea sovrannumero, crea anche una certa dinamicità superiore nella zona centrale del campo, che spesso fa in modo che ci sia molto più spazio per potersi lanciare. Non è un caso che i giocatori inglesi, da Gerrard e Lampard in giù, sono giocatori appunto che tentano di più tentano più di puntare l'avversario, e gli avversari stessi cercano di più l'anticipo, cercano di più il contrasto. Ovviamente quando il contrasto non va a buon fine crea una situazione di superiorità numerica per chi attacca, che spesso è molto spettacolare e fa sì che esistano e si possano creare molte più occasioni da gol. divertimento certamente superiore. Poi, come sempre, visto che di quello stiamo parlando in questi giorni e purtroppo praticamente sempre, tasso di educazione, direi, di accettazione della sconfitta. La faccia, l'espressione del tecnico del City, che mi sembra sia Mark Hughes, sì, cioè una vecchia gloria del calcio inglese, che si vede al 90esimo la sua squadra riesce a fare il 3-3, no? Sì. Quindi è già un miracolo. La partita deve finire dopo 4 minuti, invece dopo 6 minuti e fischi assegna il Manchester United, e questo sia nel minuto precedente, perché evidentemente se la sentiva, sia subito dopo il gol, che uscendo dal campo fa educatamente, si tocca l'orologio all'indirizzo dell'arbitro e del quarto uomo. Io ho scritto sul Sole stamattina, segnalando questo episodio, che difficilmente Mark Hughes verrà mai a allenare in Italia, no? Credo, perché vuol dire che non ha le caratteristiche per venire nel circo, no? Uno così educato. Gli manca qualcosa, è evidente che... Ma tra l'altro Hughes era anche un giocatore molto duro quando giocava, uno che insomma sportellava non poco anche nelle aree di rigore, sia la propria che quella avversaria, e quant'altro. Devo dire che da allenatore è veramente un modello, non è tutto oro, nel senso che non tutte le cose che fanno in Premier League sono degne di essere copiate, però sinceramente cioè la sportività con cui ha accettato l'accettazione di un verdetto, l'accettazione di una decisione dell'arbitro di lasciar giocare, di dare questo minuto, e... Io ne ho presente uno che per molto meno gli avrebbe mangiato l'orologio all'arbitro, gli suggeriva, o quantomeno gli avrebbe consigliato un utilizzo diverso. Certo. Devo dirti anche, Gigi, che oggi il Daily Mail pubblica una lunghissima intervista a Carlo Ancelotti che secondo me vale più di tutte le mie parole. Lui dice: responsabilità degli allenatori, pressione, stadi e arbitri, qui in Inghilterra è meglio. Lo dice lui, lui. Come l'ha già anche detto Capello, sia pure in un ruolo diverso, sì. E quindi insomma credo che ci si possa discretamente fidare. Facciamo una breve proiezione, visto che il tempo sta passando, sui turni infrasettimanali che riguardano anche la Spagna, perché dicevi bene, grande spettacolo di Barça e Real, poi in realtà come sempre grande spettacolo orchestrale del Barça con anche i solisti, grande spettacolo solo dei solisti nel Real, tra l'altro in finale di partita contro un avversario più facile. Il Real va a giocare a Villarreal, no? E sì, quindi la ex squadra del suo allenatore nuovo Pellegrini, mi sembra una suggestione discreta questa. Sì, Villarreal ha perso 3-2 contro l'Athletic Bilbao nel weekend, e l'Athletic mi sembra la vera grande novità, la vera grande sorpresa. Il Valencia ha fallito una grande occasione domenica sera nel posticipo di essere a punteggio pieno, però diciamo che l'Athletic Bilbao in questo momento è la squadra più meno pronosticata. Sì, per quanto riguarda le grandi, il Barcellona gioca a Santander con Racing, gioca già stasera alle 22, quindi è già una partita interessante. Il Villarreal è una squadra pericolosa, però diciamo che è più pericolosa dal punto di vista della suggestione di un Pellegrini che torna dove è stato. Io credo che il Real Madrid sarà sempre così, cioè sarà tutta la stagione una squadra intermittente, una squadra che giocherà bene grazie alle costruzioni dei propri singoli. Faccio veramente fatica a pensare che Benzema, Cristiano Ronaldo e Kakà insieme possono fare dei giochi a due molto interessanti, ma poi di fatto produrranno molto grazie alle loro doti e alle loro capacità. Mi viene difficile pensare a un'orchestra quando penso al Real Madrid, mi viene molto più facile pensarla al Barcellona, perché questa è già un'orchestra. Può solo peggiorare, tra virgolette, con molte virgolette, il Barcellona, perché dopo quello che ha fatto l'anno scorso migliorare vale ovvio. Migliorare l'intercontinentale non... chiudiamo con la FIFA, che mi pare stia intensificando i controlli sui ragazzi, sui trasferimenti da controllare, per l'appunto. Sì, questa mi sembra una buona notizia, anche se questo secondo me va quasi oltre, cioè la FIFA ha un compito che secondo me Blatter sta, poi Blatter è un personaggio sul quale si può dire molto, però è un compito che dovrebbe essere affidato alle federazioni locali e in prima o seconda battuta all'UEFA e solo in ultima battuta alla FIFA. Diciamo che la FIFA è, in questo caso, è un organismo di controllo ulteriore e superiore, però è un'attività che dovrebbero fare UEFA e le varie federazioni, perché non c'è soltanto il caso del Chelsea e di Kakuta, di questo giocatore preso dal campionato francese. La FIFA sta investigando su una lunga serie di trasferimenti nei quali il rispetto delle regole, che non sono sempre uguali, questo è il vero grande problema, non sono sempre uguali tra una federazione e l'altra, fa sì che un po' ci si possa giocare e che le piccole squadre, quando il richiamo della grande squadra nei confronti del giocatore, che magari per aggiungerci anche un carico da 11, è un ragazzo che non è cresciuto navigando propriamente nell'oro, e allora c'è un po' di debolezza da parte del contraente, in questo caso del calciatore, che si fa attirare da sirene che la FIFA sta verificando quanto lusinghiere e quanto invece con profili di illegalità o quantomeno di violazione di norme. Troppo giusto. Grazie Fabio, come sempre. A voi, buona giornata. Un attimo di pazienza, Enrico, che in linea da Parma. Possiamo ascoltare la voce di Busacca, dell'arbitro svizzero, ripeto, al centro di questo caso, come minimo singolare. Le volte lo accetti e una volta i sentimenti lavorano in un altro modo, reagiscono in un altro modo, e purtroppo mi è venuto questo gesto che chiaramente non lo si può assolutamente giustificare. Io penso che dopo qualche giorno che se ne ha parlato, la vita continua e bisogna semplicemente cercare di lavorare nella giusta direzione. Ecco, se questa cosa non è servita a niente, allora ahimè, vuol dire che vogliamo solo la cosa mediatica, vogliamo solo parlarne perché è successa, a tutti interessa perché poi alla fine lavorano tutti, però se non resta niente non abbiamo raggiunto l'obiettivo, per cui se io devo pagare, perlomeno che pago per una cosa e per una causa importante che possa veramente servire un domani anche ai nostri giovani. Sotto shock Busacca, direi, da come si esprime. A parte questo tono, lui ha anche l'atteggiamento un po' in capo del seminarista prestato al calcio, e quindi insomma, magari a disagio in situazioni non semplici da gestire. E se non è servito a niente, immagino si riferisse a questi insulti gratuiti di cui è stato fatto oggetto e a cui poi ha reagito in maniera così sbagliata. Insomma, che adesso debba essere lui a ricordare la lezione dell'episodio o a tentare di ricavarne un costrutto, ma insomma, diciamo che forse è un po' prematura come cosa, no? Intanto si scontra le sue 3 giornate di squalifica, nella speranza per lui che poi la Commissione Arbitrale Internazionale non prenda provvedimenti più severi in prospettiva mondiale, per l'appunto, visto che si tratta oggettivamente di un grande arbitro, su questo non si discute. Da Parma c'è in linea Enrico, buongiorno. Buongiorno. Dica. Se mi permette, volevo tornare su un argomento che ha affrontato lei la settimana scorsa in merito all'espulsione di Gilardino. Di? Gilardino, della partita di Champions. Visto che lui sicuramente verrà squalificato per un turno e quindi per la Fiorentina sarà un bel danno, volevo sapere se non potrebbero anche squalificare il giocatore francese che ha simulato, e così almeno si pareggia il danno arrecato a quello della Fiorentina. No, non credo proprio, Enrico, anche perché il giocatore francese non ha Turalan non ha simulato in senso stretto. Turalan ha accentuato le conseguenze di un contatto, di un contrasto. Turalan è stato abbastanza sleale, secondo me, però non è caduto in una simulazione vera. E poi comunque l'UEFA e la FIFA, insomma, queste cose in ambito internazionale, questi provvedimenti postumi che ribaltano verdetti del campo, vengono presi solo per casi di estrema gravità. Questo, sfortunatamente per Girardino e per la Fiorentina, non era un caso di estrema gravità, è una cantonata che si può anche prendere, e in cui c'è dentro un po' di errore dell'arbitro e un po' di accentuazione da parte dell'avversario. Il calcio ogni tanto va anche così. Non pensa, scrive Luca, che l'atteggiamento di totale difesa nei confronti di Briatore da parte dei media italiani sia leggermente sconcertante? Io penso, Luca, che lei conosca l'arte dell'eufemismo, perché leggermente sconcertante è ben approssimato per difetto, insomma. Mi dica due parole, scrive Giovanni da Bergamo, su Conte: sarà in grado di condurre alla salvezza l'Atalanta? Ma io penso proprio di sì. Penso che l'Atalanta non sia una squadra di retrocessione, se anche l'avesse continuata a guidare il povero Gregucci. Dico povero perché gli è girata veramente tutta storta sotto forma di sfortuna nelle prime partite, di infortuni ripetuti a giocatori. In ogni caso sentiamolo direttamente da Conte. Stavo per dire a Paolo Conte, invece ci accontentiamo di Antonio. Sentiamo. è inevitabile che dispiace trovarsi dopo quattro partite a zero punti, però secondo me ci sono tutte le premesse per imboccarsi le maniche, per lavorare tanto, perché comunque ci sarà da lavorare tanto. Io ho il mio modo di fare calcio, penso che questa sia una squadra che possa esaltare un po' il mio modo di pensare, di trovare giocatori con caratteristiche e io posso esaltare anche loro. Però ci sarà tanto da lavorare, però questo non mi spaventa, né io né il mio staff, consci comunque di trovare una situazione ambientale e una società che ci mette nelle migliori condizioni per fare il nostro lavoro. La storia è bella di ricordare, però secondo me poi alla fine uno ci deve mettere anche una pietra. È inevitabile, la Juventus, io sono stato uno dei papabili, no? Per questa panchina, però poi ha fatto altre scelte. Ripeto, io sono molto contento, entusiasta di accettare questa sfida con l'Atalanta, perché so di trovarmi in una società, in un ambiente dove si possono fare le cose per bene. Sono come allenatore molto passionale, quindi penso di sposarmi bene anche col tifoso bergamasco. Ci auguriamo di fare bene, io sono convinto che faremo bene. Ci sarà da lavorare, questo sicuramente, perché ripeto, io non sono un gestore, io sono un allenatore che ha delle idee e che comunque fa giocare le squadre con le proprie idee, quindi le devo trasmettere. Sicuro di serio è sempre stato Conte, non mi pare che questi mesi di assenza dal mondo del calcio gli abbiano nuociuto da questo punto di vista. Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, le volevo chiedere due domande veloci e poi ascolto la sua risposta per radio. Ho notato la Juventus ha cambiato lo staff medico, ma praticamente la moria di infortuni è paragonabile se non più alta di quella dell'anno scorso, ma non so se lei l'ha notato, si stanno facendo male quei giocatori che hanno avuto un turno di riposo. Cannavaro non ha giocato a Roma e si fa male il mercoledì, Thiago e Diego non giocano con le nazionali, con 15 giorni di riposo si rompono, è la prima partita che fanno, quindi mi incuriosisce il fatto che chi gioca molto non si fa male nella Juve, una cosa un po' strana. La seconda non l'avevo notata, carina questa in effetti. La seconda è, non vorrei fare una specie di bestemmia nel mondo del calcio, ma secondo me il vero sostituto di Diego nella posizione di Diego è Camoranesi, perché Camoranesi ne gioca a tre di centrocampo, si accentra la fascia, rimane un'autostrada, mentre a posto di Diego per me avrebbe i piedi buoni per sostituirlo, perché il ragazzino è troppo gracile, è praticamente sempre per terra. Ascolto le sue risposte per radio, grazie. No, ma ci sta anche questa, ci sta anche questa. Camoranesi è discretamente poliedrico come qualità, e quindi è in grado di fare appunto di fare il Diego in certi spezzoni di partita, insomma, comunque di provare. Poi non ha quella potenza, non ha quella velocità, non ha quell'età nemmeno, ha altre caratteristiche, ma Camoranesi è uno che di ruoli ne può davvero rivestire tanti, magari appunto pro tempore. Da Milano Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per avermi richiamato. Una riflessione tornando all'argomento della spettacolarità del calcio inglese rispetto a quello italiano. Da presidente di una squadra dilettantistica, da anni vado dicendo che dobbiamo affrontare le due questioni pilastro di questa faccenda. La prima, la struttura degli stadi, la logistica degli stadi italiani è allucinante, e per norme anche federali, di CONI, di interventi, ci troviamo con stadi che col calcio hanno poco a che fare. Seconda, quella dell'ordine pubblico. Gli inglesi l'hanno risolto il problema degli hooligans. Noi siamo ancora a parlare di Cagliari, dei cori razzisti e delle bombe esplose all'Olimpico domenica sera, una vergogna. Se non affrontiamo queste due questioni, credo che di spettacolo in Italia ne vedremo ancora poco. Assolutamente d'accordo, nel senso che questi sono i presupposti di partenza, e cioè creare dei teatri frequentabili dalle persone per bene, in maniera che poi vadano in scena spettacoli adeguati. Questo mi pare il succo del suo intervento, che condivido assolutamente al 100%. Si diceva prima che Cagliari, che i cori razzisti a Cagliari non sono costati un euro, perché Orsato ripeto ancora una volta, ieri ho sbagliato, non toccava a lui sospendere la partita, toccava al rappresentante dell'ordine pubblico designato al Ministero degli Interni, ed era questo rappresentante che avrebbe dovuto sentire il dovere di costringere o chiedere, non ha importanza, a Orsato, all'arbitro, di sospendere la partita. Ma Orsato poi non ha scritto nulla nel rapporto, per cui questo meraviglioso episodio di Sportività di Cagliari è andato del tutto impunito, mentre l'Olimpico, le bombe carte di cui lei fa cenno, sono costate la bellezza di 15.000 euro per 17 bombe carta, cioè quindi nemmeno 1.000 euro a bomba, no? Se vogliamo fare i conti in tasca. Ma tra l'altro costati alla società, poi è chiaro che esiste una responsabilità oggettiva in questi casi, mancherebbe altro che non esistesse in un paese come il nostro, ma la società caccerà questi 15.000 euro. Quelli che l'hanno lanciate le bombe, nessuno si permette di andare pur sapendo benissimo le autorità chi sono e sapendolo da lungo tempo, nome per nome, casa per casa, guai ovviamente a interferire con questo diritto, come dire, di dissenso, no? Perché tra l'altro stava rientrando sulle tribune dopo non essersi presentati all'inizio per protesta contro la tessera del tifoso. Insomma, è chiaro che per segnalare il loro ritorno, insomma, un minimo di festeggiamenti, no? Di piedi grotta, per l'appunto, dovevano farla. 17 bombe carta. Luca Cesena, buongiorno. Buongiorno, mi riallaccio proprio al discorso di tessera del tifoso, perché volevo la sua opinione in merito. Io leggo e ascolto, ma sinceramente ci ho davvero capito pochissimo. Stamattina ho sentito un GR Petrucci che anche in maniera abbastanza sostenuta diceva: CONI e Federazione l'hanno accettata, fatevi una ragione, è questa e così ve la tenete. Visto dal di fuori, per certi aspetti, a me sembra, ad esempio dal punto di vista giuridico, una bestemmia. Uno che si è preso un DASPO 4 anni fa e che l'ha scontato, adesso cosa fa? Lo risconta in maniera retroattiva? Non lo so, non ho ancora capito che cosa serve. Mi aiuta a capirci qualche cosa. Luca, io posso farla aiutare da Marco Bellinazzo, che se ne occupa professionalmente per il Sole 24 Ore e che frequenta anche gli stadi. Io me ne guardo bene, perché non mi sembrano posti oggi che si possa soltanto pensare di frequentare, e quindi davvero non sono preparato. Posso nel dettaglio posso continuare a dire quello che penso a proposito di tessere del tifoso, per quel minimo di documentazione che ho. È un provvedimento non felicissimo, come tutti i provvedimenti che partono da una schedatura a me personalmente non piacciono, però è probabilmente in una situazione di amari estremi, estremi rimedi, e soprattutto in una situazione in cui non si riesce a trovare la volontà di perseguire veramente quelli che delinquono, cosa si fa? Si schedano le persone per bene. Io sono contrario ideologicamente a un progetto di questo genere. Alle autorità piace, all'autorità di governo piace, a quelle dello sport evidentemente pure, e quindi si faccia la tessera del tifoso. Marco, chiamato da Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno. Relativamente alle dichiarazioni di Galliani sul passato, presente e soprattutto sul futuro delle squadre italiane in Europa, ogni anno ci troviamo a discutere sulle stagioni fallimentari in campo europeo delle nostre, Juventus, Milan, Inter e le altre, lamentando una mancanza di mentalità adatta a queste coppe. Io mi affido alla vostra competenza, alla vostra esperienza, per chiedervi di chi è figlia quindi questa famigerata mentalità di cui c'è bisogno. Se la madre probabilmente è la cultura sportiva di ogni singolo paese, chi è il padre che può aiutare le nostre squadre a meglio figurare in Europa ed avere un approccio più propositivo? Grazie, arrivederci. Ma Marco, io credo che esistano degli altri, cioè toglierei qualche maiuscola e penso molto più semplicemente che esistano degli alti e bassi, che questo sia un periodo di bassa oggettivamente, che movimenti calcistici come quelli che sappiamo, insomma, siano al momento più organizzati e anche più finanziariamente più solidi del nostro. Poi queste finanze, in realtà, andiamo poi a vederle davvero con la riforma che Platini e l'UEFA hanno cominciato e andrà in vigore dal 2012, e poi magari rifaremo i conti. dal suo accento sembrava che, insomma, che fossimo un paese del terzo mondo calcistico. Così non mi pare, siamo un paese da quinto mondo da altri punti di vista, e quegli accenti li riserverei appunto alle questioni tipo Cagliari, tipo Olimpico e tante altre ancora più gravi che ci sono state nel passato e che si preparano, tornano a prepararsi con questo lassismo e con questa indifferenza rispetto a questi segnali, a parer mio, così gravi. Ripasso, affidato anche oggi a Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 settembre 1979. Nel Borussia Mönchengladbach, sconfitto per 4-2 in casa del Kaiserslautern, il giovane tecnico Jupp Heynckes dà fiducia a un ragazzo molto promettente. È Lothar Matthäus, al debutto assoluto in Bundesliga. Il 18enne centrocampista si fa subito notare per classe e personalità, diventando presto un titolare inamovibile. Matthäus rimarrà ad alti livelli per 21 stagioni. Tra Borussia, Bayern Monaco e Inter ha giocato complessivamente 579 gare in campionati di massima serie, segnando 158 reti. Inoltre, con 150 apparizioni, è tuttora primatista assoluto di presenze con la maglia della nazionale tedesca, con cui ha vinto da capitano i mondiali del 90. Tutto vero, 150 presenze, sinceramente ne ricordo qualcuna delle ultime che, se la fosse risparmiata, era un vantaggio per la Germania e anche per lui, ma insomma 150 sono tante, stiamo parlando di un grande come è stato Lothar Matthäus. Bella questo messaggio di Marco da Pesaro. Fossi Ferrara farei giocare Camoranesi al posto di Giovinco, ma a Camoranesi preferirei Giovinco, perché altrimenti quando li facciamo crescere i giovani in Italia? Anche questa è una buona riflessione, bravo Marco. Poi un paio di mail che, insomma, mi sembra potrebbe valere la pena di leggere. Abbiamo anche delle voci da ascoltare, sentiamone subito una a proposito dei fatti di Cagliari. Il presidente dell'Inter, Moratti. Spero e credo che Mourinho non abbia fatto insulti speciali, ma comunque o abbia insultato il direttore di gara, da quello che mi dicevano, però se così dicono vuol dire che da qualche parte li hanno sentiti. Mi dispiace che sia stato squalificato, e mi dispiace anche che sia successo. Ci sono delle cose automatizzate che forse non sono scattate, forse l'arbitro avrebbe dovuto fermare 3 minuti, ma insomma è importante, non è tanto il fatto delle sanzioni, è importante che si smetta per normale atteggiamento nei confronti di professionisti, di ragazzi che fanno il loro mestiere e che non meritano questo atteggiamento. Un intervento esemplare, davvero, perché questo non è un intervento di parte, questa è una riflessione a voce alta da buon padre di famiglia. Dove andiamo? Andiamo dagli ascoltatori già collegati, da Marco per esempio, provincia di Ravenna, buongiorno. Salve Garanzini, buongiorno. Dica. A lei. Vorrei tornare sul weekend internazionale, perché trovo che nel commento siate sempre molto generosi con il calcio inglese e un po' severi con il nostro. Io ho visto il derby di Manchester e ho visto anche Roma-Fiorentina. Ora, i due portieri in Inghilterra da noi giocherebbero in eccellenza. E questo l'ha detto prima Tavelli. Per quanto riguarda Roma-Fiorentina, invece, io ho trovato un primo tempo meraviglioso e, citando Fulvio Bernardini, direi che così gioca solo in paradiso. La Fiorentina purtroppo è inferiore alla Roma, se i giocatori stanno bene e hanno voglia non c'è partita. Comotto, Dainelli sono giocatori da medio-bassa classifica, e quindi se, di là c'è Totti, di là c'è Vucinic. E quindi come mai c'era la Fiorentina davanti alla Roma in classifica, e come mai la Fiorentina è andata in Champions e la Roma no, praticamente con gli stessi organici? I problemi della Roma io li ho ascoltati e voi li avete spiegati molto bene le scorse stagioni, no? non li devo richiamare io. Resta il fatto che fuori classe alla Roma la Fiorentina non ce li ha, soprattutto dietro. No, su questo no, soprattutto dietro non lo so, perché comunque due uomini come Totti e De Rossi in serata di grazia sono indubbiamente uno spettacolo. Io ieri ho aperto la puntata del lunedì, cioè quella fresca sui fatti del fine settimana, sui fatti più o meno tecnici, no? Sperando ogni tanto di poterne parlare proprio col capolavoro del terzo gol e comunque con lo spettacolo di quel primo tempo, ma facendo sempre un pochino la tara sulla scarsissima opposizione che la Fiorentina ha presentato sabato sera, e che non è dovuta a una differenza di organico come, come, insomma, come lei invece sottolineava. Un'altra voce da ascoltare, quella di Mazzone su Totti. Io non capisco come si possa mettere in discussione un giocatore come Francesco Totti. Io non capisco che cosa pretendono, che cosa vogliono da sto ragazzo. Che vinca da solo tutte le domeniche? L'amore per la sua città è talmente grande e forte che deve avere una pazienza. Non sanno quello che fanno e quello che dicono. Mazzone. Mazzone è uno che ogni volta che parla il segno comunque lo lascia per questa passione con cui partecipa ancora ormai, sia pure ormai di fuori, insomma è di fuori già da qualche tempo. Però lui rimane e rimarrà un totiano integrale, e credo si riferisse al fatto che domenica sera Totti, dopo questa bella partita della Roma e splendida partita sua, ha lanciato la sua maglia in curva e dalla curva gliel'hanno restituita a Totti. Io sinceramente in curva non ci andrei nemmeno a pagamento, ma avessi mai ricevuto la maglietta, arraffato una maglietta di Totti, me la sarei tenuta volentieri e ci andrei in giro. Evidentemente c'è qualche regolamento di conti da parte della brutta gente, no, che frequenta le curve. Enrico da Parma, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Ma Enrico, mi scusi, ma è già intervenuto un Enrico da Parma prima, no, non è lei? Un altro Enrico. No, un altro Enrico, beh, vuol dire che oggi gli Enrico Parmigiani vanno di moda, dica. Grazie. Comunque io volevo dire questo, e mi dispiace invece tornare e non parlare degli aspetti tecnici del calcio, ma fino a quando chi mette soldi, chi fa funzionare questo mondo, vota dei presidenti di Lega e soprattutto dei consiglieri come Lotito e Zamparini, io credo che non si vada da nessuna parte. Sarebbe molto meglio che ci fosse gente come Mazzone, come appena vedi dire lei, a decidere di che cosa parlare e quali decisioni prendere in merito domenica per domenica. Poi vabbè, questo è il mio pensiero, credo che sia il pensiero di tanti altri. Grazie. Grazie a lei Enrico. Leggerei una mail che mi è arrivata da Cagliari, che è firmata, leggo solo il nome, Marco, dice: sono un tifoso del Cagliari abbonato alla Curva Nord, preciso che non sono un ultra. Lei ha ragione quando dice che la partita doveva essere sospesa temporaneamente, anche perché lo stadio di Cagliari purtroppo è recidivo. Lo scorso anno, lo dice un tifoso del Cagliari, ripeto, lo scorso anno Ibrahimovic subì cori razzisti vergognosi in riferimento alle sue origini zingare, questo scrive l'ascoltatore, cori che ricordo che lei segnalò ma che i media mediamente ignorarono. Altri bulli ricordo contro Eriberto, contro Liverani, 2 anni fa contro Suazo e molti altri giocatori. Per questo ero preparato al peggio per la partita. Gli insulti a Balotelli si sono intensificati dopo un piccolo scontro fisico e verbale con Agostini, e da quel momento più della metà della curva si è lasciata andare a quegli odiosi bu. Non credo che tutte quelle persone siano effettivamente razziste, probabilmente sono soltanto ignoranti e non si rendono conto della gravità della cosa. Se poi lei li vedesse, questo scrive questo ragazzo Marco, è per questo che non cito il cognome, se poi lei li vedesse questi razzisti al mio fianco la domenica, brutti, bassi con delle pancione, è paradossale che questi omuncoli diano della scimmia a un giocatore alto, magro e con un bel fisico e portamento come Balotelli. Non trova, ma trovo sì Marco, altro che se trovo. Qualcosa lombroso ha lasciato, no? Come traccia. Maurizio da Milano, rapidamente a concludere. Buongiorno a tutti. Due considerazioni sulla tessera del tifoso. Io personalmente, se serve a schedare i cattivi, sono personalmente, è una mia opinione, disposto a farmi schedare. Questa è la mia considerazione. Uh-huh. Ma quello per cui chiamavo riguardo la testa del tifoso è un ascoltatore, se non sbaglio, ha accennato al fatto che non trovava giusto che chi fosse stato colpito già da Daspo 3-4 anni fa, già scontato diciamo questa mini condanna, non possa avere la testa del tifoso. Insomma, poteva pensarsi prima di fare anche per me il danno è molto ma molto relativo, poi giuridicamente si può discutere, ma il danno sarebbe molto ma molto relativo. Sono d'accordo con lei Maurizio, grazie a Fabio Cantadoni regia, Flavio Suarni in redazione, Giornale Radio.